Quanti chi fischia? Un fischietto! Successo, ciao Giulio. Ciao Marco, io sento la portante, sentivo tutta piena di fischi, fischi e fischietti. No, io ero in camera di mamma, ho sentito adesso chiamare te, sono accorso, però non mi ero accorto di fischi. Ma è quel fatto che dicevamo l'altro giorno, che uno chiama e tutti premono la portante, fischiano però non rispondono, quindi ci sono 10.000 persone sul canale ma nessuno risponde, quello. E infatti c'è tanta gente che ascolta ma sono tutti sordi allo stesso tempo, infatti gli ho detto, non è che ti devo regalare un trapano, no, per suonarti le orecchie. Non mi ha risposto, ma non sarà scemo che le regalo il trapano io. Ah, ma questo segnale, no, di questo non me ne ero accorto. Non ci avevo badato perché ci avevamo la TV accesa e invece ho sentito la tua. Dicendo frusci, fruscetti, fruscioni. È come lui, no? Guarda, come lui. E beh Giulio, amici, qua c'era una rotta prima, poi che è andato a cucinare, due sono andati a cucinare, noi ci abbiamo orari molto più comodi, quindi anzi ti dirò, qua è già pronto, ma noi mangiamo comodamente alle 2, 2:30, dipende dalla fame. E beh certo così, c'è la gente poco fa qua, l'orario nostro è più comodo, e vabbè, prima delle... Nel baracchino ci sono altre cose più interessanti da fare. Sì, infatti, vabbè, ma è stato un caso, dice, lì c'ero io, Gianni, doppio lume, macchina, Natalino, poi è entrato Capino a salutare, poi vabbè abbiamo un po' chiuso perché tutti si preparano magari al pranzo, dai, poi Natalino ha esigenze che deve mangiare un po' prima, no, per farsi la cosa, la terapia, quello che è, insomma, già lo sai, no, che tipo di problemi hanno loro. Capito, è inutile che quello tenta di passare, tanto non ce la fa. Ma non ti passa nella maniera più assoluta. Ah, è risorto Natalino, caspita, senza sentirlo. Purtroppo non si sente tanto bene, quindi è un po' dolore, cosa, poi se vuole già te lo racconta lui. È un po' così, chi è che vuole entrare avanti? Sente una specie di innesco, di rumore strano, non so come definirlo, avanti. Quando tu la stessa cosa, la portante, non si sta solo sprecando tempo, inutilmente. Ehi Giulia, no, qua è forte, diciamo la portante qua è forte, ti copre, te tra 9.10 e 9.15 è, quindi non è così bassa, e da te quanto arriva? Allora, qui arriva Santiago 7, Santiago 7, non di più. Eh no, cavolo, qua già è abbastanza forte, sente come un'alternata, o è qualcuno che non esce, no, ma si sente il rumore di fondo, quindi qualcuno che non vuole entrare, ma vuole così far capire che c'è. Sì, ma non ce ne frega niente della sua presenza, a lui non ce ne frega niente. Se lui c'è, che ci sia e ci rimanga, chi te ne frega? Adesso hai migliorato il segnale molto, adesso sei al pari, ecco. Appunto, riesci a sentirmi adesso? Sì, adesso sì. Allora, va bene così, non c'è problema. Come si dice, quando uno ti provoca, allora bisogna anche provvedere in qualche maniera. Io mi stavo per quasi per scaldare il bagno, sennò poi ho stomaco pieno e chi ce ne fa più bagno, capito? E poi stasera vediamo se il tempo tiene, magari ci scappa anche la scampagnata. Perché no? La giornata già è discreta, non è bellissima, comunque già è discreta. Un pochino è fredda ancora, però diciamo nelle ore di pranzo dovrebbe scaldare ancora un po', per cui ci dovrebbe permettere di andare a fare una passeggiata. Sì, ho notato, no, siccome ho visto il sole pieno, poi ho guardato il termometro esterno e sono, qua risulta almeno dove sto io, 16 gradi all'ombra naturalmente si misura, credevo fossero di più, tipo 18, 20, 22, e lì comincia a essere già troppo per me, capito, io soffro il caldo terribilmente, quindi sarebbe un dramma. Lo 16 è gestibile, basta portarsi una giacca in più per il fine in serata, perché poi rinfrescherà di brutto, eh? Sì, rinfresca sì, tanto che è ancora il tempo, non è stabile, proprio a tempo buono, si sa, può fare qualche giorno buono, poi magari ci ripensa, cambia idea e allora arriva di nuovo le piogge, eccetera, ma comunque ancora non possiamo pretendere un'estate piena, o meglio una primavera piena come gradiremo noi, dai. Io ci crepo quest'estate, sai, come l'anno scorso, dove trovi 30 gradi fissi, minimo 30 gradi fissi, e per me è deleterio. E vabbè, vediamo come viene. Ehi, vabbè, uno già riesce a difendersi sempre, non c'è problema. Ma diciamo che 30 gradi questi giorni passati li abbiamo già raggiunti, Il tempo era arrivato anche a 30 gradi, anzi da qualche parte in Sardegna anche 32. Va bene che ieri addirittura c'era la neve, ma no, certamente non qua. Quelle nelle zone alte, nelle zone montane. Vabbè, sì, Natalino sta entrando poco perché non se la sente, sta poco bene, dai. Io, vabbè, non c'è molta voglia, cioè, magari entro una volta, certe volte sto tutta la sera in radio, un giorno e poi sto un mese senza entrare. ok, perciò va bene così, l'ho rimesso come prima. Sperando che non ritorni quello con la sua portantina Santiago 7, speriamo che non ritorni. Ah, che strana questa differenza di segnale, cioè strana no, semplicemente è più verso di me allora che verso di te. Va bene Giulio, io mi sa che procedo col bagno, così me lo levo di mezzo e stasera poi si vedrà. Ok, dai, buon proseguimento di serata. Ho una curiosità Giulio, ma tu guidi ancora oppure non hai più voglia o hai lasciato perdere? Sì, guido sempre io. Ho ancora un anno di patente per il rinnovo, perché l'ho rinnovata in giugno, mi sembra, dell'anno scorso, sì, che è un anno un anno, perché l'ho rinnovata uno o due mesi dopo la scadenza, no? Se no l'avrei dovuta rinnovare in aprile, e invece l'ho rinnovata verso maggio, la fine di maggio, là, più o meno. Adesso mi scade il 29 del prossimo anno, mi scade, per cui va bene. Sì, sì, guido ancora, certo che guido. No, ho chiesto perché magari certe persone a una certa età non hanno proprio più voglia, appendono proprio le chiavi della macchina al chiodo e rinunciano. Vabbè, mamma nel suo caso ha dovuto rinunciare per la gamba, praticamente non poteva premere la frizione, sai, come guidi in città di continuo, e quindi le era scaduta già da tanto. E mi pare per l'Italia la rinnovavano ogni due anni. Mi pare di ricordare, non mi ricordo più com'è adesso Giulio, se è cambiato, a me me la cambiano ogni 10 anni, perché ancora, vabbè, giovane tra virgolette, lasciamo perdere, poi mi fanno ogni 5, poi ogni 2, così era, l'ho cambiato. Ma la regola è così, fino ai 50 anni 10 anni, fino all'età di 50 anni, dai 50 anni in poi 5 anni, fino ai 70, 75 anni, no, fino agli, sì, fino ai 75 anni, dopo 75 anni 3 anni, fino agli 80, dopo gli 80 come me 2 anni, io ne compio 82, quel 29 di questo mese, per cui me l'ho rinnovata per 2 anni, allora il prossimo anno dovrò rinnovare ancora. Ah, quindi era ecco, dopo una cosa 3 anni era. Quindi io, avendo passato i 50, in teoria entro i 5 anni la dovrei di nuovo rifare. Cavolo, sono entrato già nella seconda fascia d'età, diciamo, da quella rottura. Eh sì, se hai raggiunto i 50 anni, il prossimo rinnovo te lo fanno per 5 anni. 5 anni fino all'età di 75 anni, mi sembra, sì. O 70, adesso non ricordo bene, se 70 o 75. Dai 75 poi 3 anni. Si aspetta, allora, come la Suria. Allora, dopo 70 è 3 anni, sì, perché anche a mia moglie l'hanno rinnovata per 3 anni, sì, è vero, è vero. È così. E dopodiché agli 80 o 2 anni. Fin quando è possibile, poi non lo so, se poi qualcuno ha qualche problema se lo posso rinnovare anche per un anno oltre gli 80 anni. E poi l'ultima volta mi hanno dato la patente nuova, brutta, sembra una carta di credito, la foto è minuscola, in bianco e nero, la firma è ancora più microscopica, cioè, a me piaceva la vecchia patente, foto a colori, grande. Vabbè, però non so nemmeno come la leggano, se abbia un microchip pure, banda magnetica dietro non ne ha nemmeno, non so cosa leggano, c'era nel codice tipo quello, ma come si chiama? Non il QR, è quello, il codice a barre, già capito? Infatti sicuramente avevano quello, poi per l'autentificazione penso che avevano quello, poi no, non lo so, però la data di scadenza c'è scritta lo stesso, c'è scritta la data di rinnovo di scadenza, sì, è in bianco e nero, adesso è bianco e nero, in bianco e nero, e poi è minuscola, proprio piccolina, la foto che la stampano, ed è plastificata praticamente, no? Perlomeno è così, sì, prima era più bella, era molto più bella. Vabbè, fino ai 50 anni tu ce l'avrai avuto, ce l'avrai ancora, adesso quando la rinnovo te la fanno anche a te così piccolina. Aspetta, io la sto prendendo, sono curioso di vedere se è veramente. Allora, patente di guida. Mamma mia quanto è piccola, mi devo mettere anche gli occhiali per vedere da vicino, non vedo una mazza. Sì, perché io avevo già passato i 50 anni rinnovandola. Vediamo dietro allora. Hai ragione, 5 anni. L'ho rinnovata nel 22 e nel 27 la dovrò rinnovare, quindi sì, sono entrato nella seconda fascia d'età. Ogni 5 anni rinnovo. Sì, è così, è la legge così. Dopo i 50 anni è per 5 anni. Poi Poi addirittura per i camionisti, se uno ha la patente del camion, ai 65 anni gliela prendono. Non puoi più guidare il camion, io so che è così, a meno che non abbiano cambiato le leggi adesso, ma non credo però, anzi casomai saranno leggi più ferree ancora di prima. Sì, di solito vanno a restringere le leggi, non è che diventano più malleabili, vanno sempre a stringere, dai, già capito, sì, comunque è vero, non ci avevo manco fatto caso, me. Quando l'ho rinnovata l'ho fatto con un chalance, è vero, nel 2027 la dovrei rinnovare, che rottura, vabbè, pazienza, dai. È lo stesso, la carta d'identità è piccola, piccola, che io praticamente senza gli occhiali per vedere da vicino non leggo una mazza, non leggo più niente, e poi alla vista non è più quella di una volta, porca miseria. Questo è normale, no? Dopo i 45 anni si comincia ad abbassare la vista da vicino, per cui necessita gli occhiali, è ovvio. Di solito sì, poi magari c'è qualcuno che anche a 50 anni, a 55, anche a 60 anni puoi vedere lo stesso, però allontanandoti il pezzo che devi leggere, perché se tu lo metti alla distanza normale, come si dovrebbe, non riesci a vederlo, lo vedi tutto distorto la scrittura, mentre invece se te la allontani, magari se uno non ha, a meno che uno non è miope, se te la allontani tutta la distanza del braccio, anche a 60 anni puoi leggere senza gli occhiali. E infatti guarda, io anche per fare saldature mi trovo molto male, devo usare o la lente di ingrandimento che devi tenere a mano, oppure avevo quella col pesettino, è presente quella, sia una base pesante che ha le pinzettine e la lente di ingrandimento, no? È una specie di cosa unica, tutt'uno. Oppure quegli occhiali che vendevano anche in TV, che praticamente sono per vedere molto da vicino, è come che ingrandissero, e ci hanno ai lati due LED luminosi in modo da illuminare. Allora in quel caso riesco a saldare qualcosa, però senza non vedo più bene. Da vicino no, dopo i 45 anni comincia a abbassarsi la vista per vedere da vicino, da lontano no, puoi vedere benissimo, non c'è problema, ma da vicino comincia a diminuire. Te lo sto dicendo, per poter vedere devi allontanarti il pezzo, quello che leggi, quello che vedi, guardare da un po' più distante, anche che guardato che so io a 30 cm dagli occhi, tanto per fare un esempio, dovrei guardare da molto più lontano, con 50 cm, 60 cm riesci a vedere. Sì, ce li ho anch'io, quegli occhiali lì, con le luci, ce li ho anch'io, non è un problema, ce l'ho già da qualche mese, così, 3 mesi mi sembra. Fatti arrivare da fuori però, non comprati qua, fatti arrivare da Amazon, credo, perché me l'ha fatta arrivare mia figlia. E ci sono le lucette e ti danno anche il cavetto per la ricarica, perché si ricarica come il telefonino, uguale, no? Oppure puoi usare la ricarica, il cavetto del telefonino, però una secca alla volta, mentre invece il suo cavetto originale è doppio, li attacchi tutti e due sanghe, tutte e due cose, le verghe che si illuminano, quelle lì puoi caricare tutti insieme. Oppure con lo cavo del telefonino, una alla volta, prima una parte e poi l'altra. Ah vabbè, ricaricabili, no, qua forse ora il modello vecchio o più nuovo, praticamente usa pile a bottone, delle pile a bottone, e quelle credo di averle prese da se da chi? Da Lidl. Quelle cosettine utili per il bricolage, hanno le pile a pastiglia, tipo quelle degli orologi, ecco, anzi le devo anche cambiare. Poi vabbè, per leggere uso occhiali già più eleganti, non quelli con le correzioni diottriche. E poi anche però per vedere da lontano, essendo mio, devo usare, per esempio io alla guida ho l'obbligo lenti, un'altra rogna, e io praticamente non mi devo dimenticare mai gli occhiali, perché se mi beccano guidare senza occhiali qua mi sospendono anche la patente per la rottura. Insomma, è finita la pacchia, Giulio, da. Ho capito, sì, vabbè, quello, ci sono delle patenti Leoni è ovvio, con questo sì, lo so, ma comunque comunque quando vai a fare una visita puoi andare sia con gli occhiali che senza gli occhiali, per leggere a distanza, no? Per leggere il tabellone delle lettere, delle avvocate che ti fanno leggere loro, per cui non è un problema. Poi perlomeno è così, io sono andato con gli occhiali da distanza, che tra l'altro sono 0,25, non è che siano così tanto forti, però non c'è nessuna prescrizione nella patente, posso guidare tranquillamente anche senza. E no, da me la prescrizione c'è, io ero andato senza gli occhiali a fare la patente, no? Però si era accorto che soprattutto l'occhio sinistro, a parte che c'è una diffrazione, è un problema così di ottica, diciamo, si è accorto che, infatti mi ha chiesto, ma lì per guidare usa qualcosa, ho detto guarda, io di mia spontanea volontà usavo gli occhiali perché la vista non è più come quella di una volta. D'altronde se ne era accorto anche lui dall'esame, quindi dice lì l'ha messo, l'obbligo delle lenti l'ha messo perché comunque già vedi tutto, macchine, semafori e tutto, però no, se vai in una località che non conosci, per esempio il nome della località che non conosci, io nei cartellini non riesco a leggerla, a meno che non sia vicinissimo, capito? E allora lì per sicurezza loro mettono obbligo lenti. E vabbè. Vabbè, quello sì, vabbè, io se per quello ne ho avuto altri problemi, sempre a livello di vita, ma questo risale già a un bel po' di anni fa. Comunque, andiamo avanti, non c'è problema, poi si sa, con passare gli anni, io dico sempre, si consuma tutto, anche gli occhi si consumano. E cosa ci vuoi fare? Vabbè, comunque, sperando sempre di poter avere il tanto necessario e sufficiente per poterti difendere sempre, in ogni circostanza. Poi, se un domani non puoi più guidare, pazienza, no? Nella fine del mondo. E del resto, non siamo nati con l'automobile, siamo nati senza l'automobile. Io la patente ce l'ho dal 1956. Fatto il conto, esattamente 58 anni la patente della macchina, e precedentemente avevo anche la patente della moto, avevo di almeno altre 3 o 4 anni prima ancora di quella della macchina, sicché per oltre 60 anni io sono patentato, per dire, tra quella della macchina e quella della moto. Sì, anche quella della moto, infatti la moto l'avevo presa prima. Per guidare quelle Kawasaki 250, Honda 400, eccetera. Ma io sto vedendo qua che si sta mezzo coprendo il cielo, ma ho già capito l'antifono, che non sa che oggi non si esce. Boh, vedo nuvole, il sole si è coperto. Vabbè, dopo si vedrà. Giulio, io quasi quasi vado a farmi sto bagno, là, mi tolgo il dente così poi sono libero di mangiare, riposare, poi vediamo se uscire o no. Ok, e ci sentiamo quando capita. Ok, d'accordo Marco, dai, e anch'io vado e mi taglio la barba, allora avete considerato che ancora mancano un po' di minuti prima del pranzo. E poi tra l'altro ho mangiato una lancia poco fa, anche perché oggi mi sono stato un pochino pesato. E appena che mi sono alzato ho preso dello yogurt, ho preso, come faccio solitamente, o un bicchiere di latte oppure dello yogurt, un bicchiere di yogurt la mattina. Però poc'anzi avevo un certo languorino e mi sono mangiato una lancia, mi sono mangiato, e adesso oggi ti ha già avvisato mia moglie, ravioli e pesci. E vabbè, andiamo bene lo stesso, non c'è problema. Allora dai, ti lascio libera, allora vai a fare il bagno come tu desideri, non c'è problema. Ci sentiamo eventualmente se sei a casa, io la stasera accendo sempre, cioè la sera accendo tutti i giorni, sia la mattina che la sera. Vedo se c'è qualcuno, va bene, se non c'è qualcuno spengo e non se ne parla più. Tanto è inutile stare lì davanti alla radio senza sentire nessuno. Eia, infatti, da. Babù, da. Non dico entrerò, ci sentiamo quando capita, tanto io sono, te l'ho detto, in molto incostante, non. E poi già lo sai la situazione, ogni tanto bisogna fare qualcosa di più in casa. Ok. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, ciao. Ok, ciao Marco, ci sentiamo, ciao. Buon pranzo comunque, buon bagno, ciao. Luca, se ci sei, batti un colpo. Se sono due è meglio.